due letture, una diciamo interna al mondo della scuola e della didattica, l'altra politica generale. Quella politica generale, non c'è dubbio che l'attuale tendenza della politica, e non mi riferisco soltanto al governo oggi in carica, ma mi riferisco agli ultimi 25 anni, è una tendenza a rimuovere la storia, a non considerarla centrale nella cultura della cittadinanza e nella formazione del cittadino. Lo abbiamo visto subito, da metà degli anni 90 i pochi dibattiti di storia erano affidati a giornalisti e non più a studiosi, erano affidati alle opinioni, non alle ricostruzioni scientifiche. E questo governo mette la ciliegina sulla torta togliendo la traccia di storia negli esami di maturità, che è un passaggio solo formale ma di grande significato. Invece dal punto di vista didattico, non è la forma esame di maturità che ci rassicura. La traccia di storia quest'anno è stata scelta dall'1% degli studenti che affrontano l'esame di maturità. E allora bisognerebbe porsi un'altra domanda, non soltanto protestare, lo dico a tanti amici studiosi di storia che si sono scandalizzati. Certo, siamo scandalizzati, ma siamo scandalizzati da un quarto di secolo. Il problema oggi è capire perché è tanto difficile insegnare la storia. Perché la storia, che era una materia ritenuta facile e ritenuta a volte anche piacevole dagli studenti di 30, 40, 50 anni fa, da 20 anni è una materia incomprensibile e difficilmente insegnabile. C'è una grande questione didattica che è anche una grande questione sociale, e cioè perché il mondo attuale non vuole la storia. È chiaro, si può obiettare, ma come? Oggi siamo pieni di siti internet di storia, tutte le reti televisive hanno trasmissioni di storia, addirittura esiste una rete televisiva che si occupa 24 ore su 24 solo di storia, Rai Storia per l'appunto, ma questa storia, per la quale c'è una evidente grande domanda, non è storia scienza, non è la disciplina storia, è una curiosità verso fatti del passato, è una storia spettacolarizzata, è una storia che non spiega e che non dà strumenti, è una storia che racconta degli aneddoti, delle suggestioni, in grado di emozionarci, a volte positivamente, a volte negativamente, ma non ci dà gli strumenti, non ci consente di far entrare nel nostro apparato concettuale la storia, e questo vale ovviamente a maggior ragione per i ragazzi, vale ovviamente a maggior ragione per la storia. Provo a esprimermi in un modo che ho già usato in passato con questa radio. Noi siamo abituati a sentirci sempre dire che chi non ha passato non ha futuro, no? È un'espressione usata da Croce, poi da Gramsci, poi da tanti, addirittura anche dal reverendo Jackson, che si candidò alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, e ce la ripetono oggi tanti sindaci e tanti presidenti in modo accorato. Hanno ragione, ma detto così oggi non vuol dire più niente. È vero il contrario, chi non ha futuro non ha passato. Oggi il passato non interessa, perché siamo in un mondo che vive sul presente. Quanti sociologi ci hanno spiegato che cos'è il presentismo? Una società attuale che non vede il passato, non vede il futuro, perché è concentrata solo sul presente. Il tempo è un eterno presente. Perché questo? Perché non abbiamo futuro, perché non siamo in grado di progettare il futuro. Se viviamo in una società con un pensiero unico, se viviamo in un mondo liberista che non vede alternative al liberismo, che futuro può mai esserci? E allora che senso ha il passato? Vedete, il passato è utile, è importante, se ci consente di capire che il passato delle società umane è stato un insieme di possibilità, un ventaglio di possibilità. Poi di queste possibilità ne è stata scelta solo una, e spesso non la migliore, ma l'idea di possibilità del passato è strettamente collegata con l'idea di futuro, un futuro possibile. Ora, se il futuro non c'è, perché tanto domani sarà come oggi, le cose andranno più o meno così, le cose non cambieranno, non succederà niente, anzi purtroppo staremo un po' peggio, ecco che non serve più nemmeno la storia. E allora il problema è interrogarci su perché questa società è ferma, perché fino a che questa società sarà ferma la storia non servirà a nulla, servirà soltanto quando ci rimetteremo in movimento. E qui rientro nel discorso della scuola in senso stretto. Bisogna riuscire a fare diventare la storia uno strumento, ma per fare questo bisogna che anche gli storici che oggi lamentano questa esclusione della loro disciplina dall'esame di maturità si rendano conto che bisogna operare una riforma radicale dell'insegnamento della storia. L'insegnamento della storia non può essere più quella disciplina in cui si studia un po' di storia d'Italia, poi, siccome siamo diventati politically correct, anche un po' di storia d'Europa e anche un po' di storia dei paesi extraeuropei. Non è questo il punto. Il punto è che bisogna rifondare la disciplina storia nel mondo della scuola a partire dal presente, a partire dalla comprensione del Novecento e della comprensione del passaggio epocale tra Novecento e Nuovo Mondo globalizzato. Bisogna rimettere in discussione il suo ruolo tra le altre discipline, bisogna rimettere in discussione la trasversalità dell'insegnamento. Noi veniamo da una storia scolastica ottocentesca che era principalmente letteraria e che sostanzialmente è arrivata così ai confini del Nuovo Mondo e non ha potuto adeguarsi alla realtà in alcun modo. E allora guardiamo questi storici accademici che oggi si scandalizzano perché la storia è stata estromessa dagli esami di maturità, in realtà soltanto da una traccia dell'esame di maturità, ma che cosa hanno fatto in questi 20 anni di tentativi di riforma dei programmi, di riforma dell'insegnamento? Io ricordo che quando la riforma Berlinguer 21 anni fa cercò di cambiare i programmi di storia, propose, come noi sollecitavamo, alcuni di noi sollecitavano con viva forza, tra cui io, il mio istituto, sollecitavamo con viva forza di partire con l'insegnamento della storia dal presente e andare a ritroso. Chi l'ha detto che bisogna partire dall'età preistorica e arrivare al presente? È molto più sensato fare il contrario, risalire agli antefatti a partire dalla realtà che viviamo oggi, anche perché è più immediatamente visibile. Calarsi nella preistoria o calarsi in età romana è molto più difficile, no? E a quell'epoca darono allo scandalo, dissero che non era possibile, che se non si conoscevano prima i greci non si sarebbe potuta conoscere la città attuale. E dunque c'è un grande sforzo oggi che va fatto di fronte a questa provocazione, perché tale la considero, un'ennesima provocazione, c'è un grande sforzo da fare per ripensare, per rimettere in discussione fino in fondo la nostra disciplina e il suo rapporto con gli altri campi dell'insegnamento in una scuola che dovrebbe formare i cittadini sia come cultura generale, sia come proprio educazione alla cittadinanza. Prendo spunto proprio da queste ultime riflessioni, perché spesso ci si lamenta che nei programmi di storia si arriva, se va bene, alla Seconda Guerra Mondiale e non si riesce mai a affrontare il presente, quindi potrebbe essere utile anche per capire, insomma, il contesto in cui viviamo. Quindi è anche una questione forse di programmi? Spesso sentiamo dire che non si conosce la storia recente perché i programmi scolastici ci impongono di affrontare talmente tanti periodi storici che poi alla fine dell'anno non resta tempo per ciò che è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, o addirittura si arriva solo al fascismo, come si diceva. Ecco, è qui l'errore. Non si può pensare che la storia sia un percorso cronologico lineare dal passato verso il presente, perché allora non faremo mai in tempo a fare nulla. La storia invece è un insieme di nodi concettuali che possono essere affrontati in diverse fasi d'età e in diverse fasi della programmazione scolastica. Soltanto in questo modo potremo affrontare in modo proficuo l'insegnamento della storia anche recente.